Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, 10 giornate sono tante, cominciano a essere significative, sono più di un quarto dell'intero campionato, che ne conta 38. E dopo anni di fughe solitarie o un po' meno solitarie, di duelli al vertice, nella migliore delle ipotesi, comunque comprensibili distacchi incolmabili, insomma già fin dall'avvio praticamente, la classifica è un bel vedere in questo momento. Milan 22, Udinese Inter 21, Napoli 20, Lazio 19, Juventus 18, Genoa Fiorentina 17 e volendo Palermo 16, Catania 15, beh insomma sembra di sognare rispetto alle premesse. C'è posto per tutti, dai 22 del Milan direi ai 17 di Genoa e Fiorentina, soprattutto Fiorentina ovviamente, c'è ancora posto per sognare, e io credo che tra i sogni che ci sono in queste, insomma, compresi, no? in questo pacchetto, abbiano rilevanza soprattutto quelli della Juventus, a parer mio, per concretezza. E quelli del Napoli, perché arrendersi su autorete a 4 minuti dalla fine, dopo una partita in cui ti è già successo di tutto, e cioè hai giocato in 10 il secondo tempo, sono usciti due dei pezzi migliori, Amsic e Santa Croce, per infortunio, e tra l'altro sarei in attesa anche di sapere di che tipo di prognosi si parla, perché questa è una valutazione importante da fare in prospettiva. Dicevo, dopo queste disavventure, dopo un rigore regalato e parato senza peraltro perdere la testa, beh, insomma, tutto questo mi pare una prova di maturità significativa. Dall'altra parte, il Milan in testa alla classifica rappresenta comunque una novità, perché erano quattro anni e mezzo che non accadeva. Era il 16 maggio 2004, giornata conclusiva della stagione 2004, in cui il Milan chiuse quel campionato con 82 punti, 11 in più della Roma, che arrivò seconda. Frutto principale, anzi no, frutto esclusivo, questi 22 punti del Milan, di una striscia strepitosa, che ha portato, dopo che la squadra era partita con due sconfitte consecutive, ha portato nelle ultime 8 partite 22 punti ad Ancelotti, alla squadra di Ancelotti, sui 24 disponibili. Di numeri ce ne sono anche altri, perché dopo 10 giornate i numeri cominciano a significare qualcosa in più. Però adesso ascoltiamo anche un po' di parole, sempre come ogni lunedì, aspettando le vostre, aspettando i vostri interventi all'800 24 00 24, la disamina proprio del posticipo, cominciando da quella di Carlo Ancelotti. Questo è il momento di questa squadra, che è una squadra che interpreta bene le partite, l'ha interpretata bene stasera, ha interpretato bene il primo tempo, ha interpretato bene il secondo quando è stato in superiorità. È stato tutto di positivo, abbiamo lottato, abbiamo cercato di giocare fino alla fine e alla fine siamo stati premiati. Questo è un fallo di mano e per me è calcio di rigore. Non facciamo la corsa su nessuno, perché credo che questa squadra ha avuto dei problemi, li sta superando piano piano, quindi credo che la corsa è più su noi stessi, il fatto di trovare ancora più continuità, ancora più ritmo, ancora più determinazione. Credo che la corsa che dobbiamo fare è su noi stessi. Certo, dopo due partite, pensare che potevamo tornare in testa così in fretta, lo pensavano in pochi. Verissimo, e mi pare di capire dal tono, ma anche da altre dichiarazioni che poi ho letto di Carlo Ancelotti, che lui stesso, insomma, avesse dovuto scommettere su 22 punti nelle successive 8 partite dopo quell'avvio disastroso. Beh, insomma, probabilmente nemmeno lui si sarebbe spinto così in avanti. Andiamo dall'altra parte della classifica, perché è in corso a Verona, ma da ore ormai, una riunione in casa Chievo, una riunione che l'ANSA definisce febbrile, per decidere il futuro dell'allenatore Iachini. Futuro è praticamente segnato, cioè la sorte è praticamente segnata. Campedelli, il presidente, Sartori, il direttore sportivo, stanno scegliendo in una rosa che è di 3 nomi attualmente: Pillon, De Canio e Di Carlo. Il trevigiano, cioè Pillon, che è già stato sulla panchina del Chievo, sembra essere attualmente il favorito. Stessa sorte, con 99 probabilità su 100, toccherà anche ad Arrigoni, dopo la disarmante sconfitta del Bologna ieri a Cagliari. Il Cagliari in questo momento è una squadra in salute, ci sta di perdere, ma non ci sta di arrendersi in quella maniera in cui il Bologna si è arreso nel secondo tempo. Cominciano ad esserci i primi messaggi, tra l'altro tutti notevolmente interessanti. Facciamo un po' d'ordine, ascoltiamo ancora qualche voce prima per completare il quadro e sentiamo quella del saggio Reia. So benissimo la forza che ha questa squadra, è chiaro che è piacevole vederla come sta crescendo, come sta tenendo il campo e soprattutto come sta giocando. Abbiamo questo spirito giovane, auguriamoci che possa durare il più lungo possibile. È bello vedere questa squadra come entra in campo senza nessuna remora, senza nessun problema, e gioca così a viso aperto con tutti quanti, dimostrando di avere buone doti. Adesso poi per vincere il campionato penso che non siamo ancora attrezzati, rimandiamo di qualche anno insomma questo obiettivo. Se la squadra cresce come sta dimostrando di crescere in questo momento, è chiaro che è bello cavalcare così le posizioni alte della classifica. Fin qua Reia, ripeto, restiamo in attesa di notizie sulle condizioni di Santa Croce e di Amsic, perché a differenza di altre squadre, non soltanto di primissima fila, perché per esempio l'Udinese di ricambi ne ha molti, il Napoli perlomeno a quel livello insomma dipende in gran parte da quei 4-5 giocatori chiave di cui fanno parte certamente di questa rosa fanno parte certamente sia Amsic sia Santa Croce. Prima di ascoltare le voci di Marino e di Gasperini per spostare il fronte su Udinese Genoa, che è stata probabilmente la più bella partita, anzi certamente la più bella partita della giornata e una delle migliori, se non la migliore in assoluto del campionato sino ad ora, è curioso notare come stamane siano apparsi sui principali quotidiani su come sia stato rubricato il gol decisivo di ieri sera di Milan-Napoli. È un piccolo test che ho fatto su alcuni quotidiani, qualcuno ha titolato in base alle regole del giornalismo e qualcuno in base a quelle del marketing. Non titolato, hanno dettagliato il nome del marcatore. In altre parole, secondo il Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica e Tutto Sport, dei sei giornali che ho visionato, il gol di ieri sera c'è scritto autogol di Denis. Secondo invece i rappresentanti del marketing giornalistico, che nella fattispecie sono Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, il gol è di Ronaldinho. Io personalmente continuo a trovare assurda questa convenzione secondo cui le deviazioni non contano, nemmeno in casi eclatanti come quelli di ieri. Devo dire sinceramente che ho trovato anche patetica l'esultanza di Ronaldinho, così prolungata, così ossessiva, così danzata, come se davvero lui avesse fatto un capolavoro e non avesse invece sbagliato una traiettoria mettendola sulla testa di Denis, che poi per sua sventura ha cacciato la palla nella propria porta. Ci sono già i primi interventi di oggi. Chiederei un attimo di pazienza allora a un bergamasco, un friulano e un genoano, un genovese, poi vedremo se sarà genoano o sampdoriano, per sentire ancora, vi dicevo, i commenti di Marino sull'Udinese innanzitutto. Durante la partita è chiaro ci sono momenti quando si fanno degli errori, è normale che ci arrabbiamo, però niente di particolare. Ma noi pensiamo a fare bene tutte le partite, non sono obiettivi che possiamo pensare di raggiungere, quindi stiamo tranquilli con i piedi ben saldati per terra, perché sappiamo bene che ogni partita è veramente difficile da superare gli avversari, perché c'è tanta organizzazione, ci sono squadre che giocano in maniera divertente come il Genoa, e quindi non è facile, ecco, bisogna stare tranquilli. Fin qui Marino. Ieri la sua Udinese ha giocato una partita non particolarmente felice, ha certamente giocato meglio il Genoa, anche se poi quel rigore del 2-1 si potrebbe discutere a lungo, così come su altre decisioni arbitrali. Gli arbitri hanno diretto in maniera eccellente le prime 7 giornate, poi da domenica scorsa a oggi, domenica, mercoledì, domenica, sinceramente qualcosina di sbagliato purtroppo si è visto. Sentiamo l'altra sponda di questa magnifica partita di ieri, e cioè il genoano Gasperini. Oggi ci siamo andati vicino, anche se noi siamo rimasti in vantaggio per poco tempo, abbiamo dovuto inseguire a lungo il risultato, però credo che proprio Andanovic sia stato migliore in campo, ha fatto alcuni interventi prodigiosi, questa la dice lunga sulla prestazione del Genoa. Sono sicuramente molto contento, sono dispiaciuto per il risultato, che poteva, oggi c'erano anche condizioni anche per vincere la partita. Poi è chiaro che l'Udinese ha dei giocatori importanti e ha delle giocate importantissime. A un certo punto potevamo anche, all'ultimo minuto forse c'è stata anche un'occasione importante per loro per vincere la gara, però globalmente il Genoa oggi forse deve recriminare qualcosa. Per ora i siti di Bologna e Chievo, a proposito di cambi di panchina, e del Napoli a proposito di Amsic e Santa Croce, non segnalano nulla di nuovo, così mi informa Flavio Suardi. Pino da Chieti mi domanda cosa penso del gol di Maicon. Beh, uno dei più belli di quest'anno è troppo facile, uno dei più belli da molto tempo a questa parte, sia per l'azione, per lo sviluppo dell'azione, per l'inserimento di Maicon, l'assist di Ibrahimovic e il tiro di prima intenzione, di quella potenza e di quella precisione. Provincia di Bergamo, Dario, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini, e grazie per avermi richiamato. Una sua opinione: io ieri sera ho guardato la partita e poi ho visto Sky, come sempre, i commenti della loro partita. Hanno fatto di tutto per cercare di far litigare Ancelotti con Reja. Non ci sono riusciti, quasi danno più fastidio ai cronisti perché i due allenatori non si sono beccati su questo rigore, che io sono milanista, non c'era, quasi a voler infiammare gli animi sempre per niente. Una sua opinione, che dico, potrebbero parlare tutti di calcio con un po' più di tranquillità e pacatezza, cosa costa? Non penso molto. Dario, sottoscrivo ampiamente quello che lei dice, questa è la ragione per cui io in 95 casi su 100 spengo immediatamente il televisore o come minimo azzero l'audio, perché magari rivedere qualche azione può servire, ma in qualsiasi dopo partita ormai, proprio per questa... Per queste perversioni, no? Anche perché insomma, bisognerebbe come minimo mettere a fuoco chi sia di fronte. Se si hanno di fronte due signori con la S maiuscola, come sono Ancelotti e Reja, comunque è una boccia persa, quella di provare, è una battaglia persa quella di provare a farli litigare in maniera gratuita. Non vorrei cominciare anche questa settimana con le segnalazioni delle zone in cui il segnale è disturbato, però Alessandro scrive da Rovigo che sta sentendo abbastanza male e io provo a segnalarlo a mia volta. Da Udine, Mario, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Mario da Udine e volevo fare i complimenti per la trasmissione e ringrazio per avermi richiamato. Io volevo fare riferimento alla partita, al posticipo di ieri sera tra il Milan e il Napoli, e pensavo alla sudditanza psicologica degli arbitri, ma non per quanto concerne magari il risultato finale. Però lei non pensa, signor Garanzini, che l'atteggiamento così, irriguardoso di Gattuso in ogni azione, se l'avesse fatto qualche giovane del Napoli sarebbe stato punito in modo diverso? Come anche guardo all'espulsione di Maggio, il secondo fallo, sì, era in un'azione in velocità verso la porta, però anche Kakà ha fatto un secondo fallo su Aronica spingendolo in modo vistoso e non è stato giudicato allo stesso modo. Volevo sapere un suo giudizio su questo e l'ascolto per radio, grazie. Il mio giudizio è che non comincerei a vivisezionare gli episodi, se non proprio di quelli di quelli abbastanza incredibili, come per esempio il gol annullato al Torino o come il rigore regalato a Inzaghi 4 giorni fa. Resterei un po' più sulle generali e sul primo tema affrontato da lei. Io condivido in pieno quello che lei ha detto. Personalmente, come credo tutti, al di là del, come credo tanti comunque, no? al di là delle maglie o del tifo, ho un'ammirazione notevole per Gattuso, ammirazione sia come persona che come calciatore, ma notevole, proprio notevole. Detto questo, non riesco a capire perché gli debba essere consentito di tutto, no? con le scarpe, con le mani, con la voce, con gli atteggiamenti, è assurdo. Se Blasi ieri sera, ha detto bene lei, ma se qualunque altro giocatore italiano si permettesse una somma di atteggiamenti come quella di Gattuso, due cartellini in una partita troverebbe il modo di racimolarli, no? Perché sembra quasi che li chiami. E invece a lui viene consentito tutto, buon per lui, ma è giusto cominciare a domandarsi se sia davvero il caso, se questa si possa chiamare parità di trattamento. Arriva una notizia che tra l'altro mi ha segnalato per tempo in tarda mattinata Fabio Tavelli, il nostro ministro degli esteri, e poi domani ci darà i particolari e soprattutto gli sviluppi, perché è una notizia di quelle sgradevoli e inquinanti. Arriva dalla Spagna, ci sarebbe uno sputo rimessi a un avversario e una bella squalifica in arrivo per il campione argentino. Nessuno se n'era accorto durante la diretta di Malaga-Barcellona, finita tra l'altro 4-1 per il Barcellona sabato sera. Il Barça in questo momento sta giocando un calcio strepitoso, il migliore d'Europa in questo istante, ripeto, per qualità e per risultati. Eppure, nonostante questo, in un lungo battibecco tra Messi e Duda è un portoghese che gioca per l'appunto nel Malaga, ci sarebbe stato o c'è stato questo sputo che è stato rubato dalle telecamere, ed è un comportamento, segnalano queste prime notizie di agenzie, davvero sorprendente, perché insomma, di Messi, oltre che il talento, si conosceva sino a questo momento una grande correttezza, e quindi è un comportamento che non ci si aspettava da un campione come lui. Gianfranco, allora, da Genova, del Zena o del Doria? Io invece sono un milanese, qua dal 92 sono milanista. come l'ho detto. Ecco, e invece ammiro tantissimo il Genoa, che mi sembra una squadra giovanile di basket, lo sport che io alleno, e sono veramente magnifici. Detto questo, sono felicissimo e volevo porle all'attenzione una riflessione, lei che è più esperto di me e ne sa di più. Io sono molto orgoglioso, come tifoso milanista, della calma del Milan, cioè questa squadra ha un allenatore che gli dà 8 anni, credo. Sì. Che vada bene o che vada male, i toni sono sempre tranquilli. Le campagne acquisti, anche se non sono soddisfacenti, non generano polemiche nemmeno fra i tifosi. Poi i giocatori, guarda caso, di solito vanno anche bene, vedi il gol di Ronaldinho. Che vada bene o vada male. Il gol di Ronaldinho quale? All'Inter, naturalmente. Ah, ecco. La prego. E finisco, no? E dicendo che naturalmente il Milan non è l'unico esempio, la calma per esempio della costruzione del Napoli, dell'Udinese, del Genoa stesso, però questo Milan, insomma, che insomma non fa discutere mai troppo, è bel tranquillo, il suo allenatore è un esempio di signorilità. Ecco, io metterei l'accento su questa componente proprio, perché mi sembra che in questo momento in particolare, rispetto ad atteggiamenti di colleghi, no, magari nemmeno così lontani geograficamente, credo proprio che un valore aggiunto del Milan sia, ma non da oggi, perlomeno non per me, sia l'atteggiamento, il comportamento, la serenità con cui Ancelotti allena, gestisce, trangugia bocconi che non credo siano particolarmente graditi in alcuni casi, ma insomma il modo in cui riesce a metabolizzare e a farsi andare bene, se non tutto, quasi tutto, ma non farsi andare bene accettando passivamente, ma trovando il modo poi di inserire per l'appunto qualche pacco dono che gli arriva, oppure di addirittura rivalorizzarlo. Credo che questa sia la vera componente decisiva, perché lei ha detto che anche il pubblico accetta con grande piacere tutto quello che accade. Beh, insomma, è vero fino a un certo punto, è vero nel senso che con il ciclo ventennale che il Milan ha alle spalle, un minimo di gratitudine, anzi un massimo, vorrei ancora vedere che non ci fosse, ma è vero anche che in certe occasioni, come per esempio le prime reazioni all'affitto di Beckham, beh, insomma, non è che il pubblico le avesse prese così bene, e invece lì subentra la calma di Ancelotti, innanzitutto la calma e la serenità, e poi la sua bravura nel trovare comunque una soluzione che giustifichi oggi Ronaldinho, in precedenza Ronaldo, Rivaldo prima ancora, e magari finora solo con Shevchenko non c'è riuscito, ma magari anche Beckham prossimamente. Christian, Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Garanzini. Dica. Io avrei due domande per lei. Sì. La prima è: cosa ne pensa di Pato? Cioè, mi spiego meglio, dopo un inizio scoppiettante lo vedo molto demoralizzato e passivo come giocatore. Uh-huh. E la seconda, se secondo lei la Vesti può diventare un super, cioè non un buon giocatore, un super. Grazie, buongiorno. Dunque, Pato non so, sinceramente non lo so, una volta era più facile esprimersi, non dico indovinare, ma esprimersi in materia, perché un giocatore che arrivava con lo strombazzamento di Pato lo scorso gennaio, se ricordate, poi avrebbe giocato almeno 1, 2, 3 anni di fila, salvo infortuni, e quindi avendolo sott'occhio ogni domenica o magari mercoledì domenica ci si poteva fare un'idea più compiuta. Oggi con le rose di 25 quando sono striminzite, si entra, si esce, ed è un po' difficile valutare con un po' di serietà un giocatore. Questo per Pato, l'altro sinceramente non lo ricordo già più. Dilungandomi su Pato mi sono perso la seconda, e vedrò di farmela tornare in mente mentre ascolto Daniele da Treviso. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Dica. Solo due parole sulla dinamica del rigore appunto dato ieri al Milan. Tutti dicono che non è rigore, ma onestamente io pratico molto sport e di correre con le braccia così ben tese all'indietro mi riesce difficile da capire come un movimento normale, naturale. Ma lei pratica molto sport così, giocando anche a calcio? Anche a calcio. Allora, volevo solo chiederle, come è stato detto da Gilardino, che appunto c'era volontarietà, non possiamo anche pensare che ci sia stata la volontarietà di tenere queste belle braccia distese all'indietro, visto che tutto il corpo era proteso in avanti in quel momento? Può essere, Daniele. Corre, le braccia devono stare vicine al corpo, no? Può essere Daniele che ci fosse, non possiamo leggere, non credo che un arbitro possa leggere nella testa di, però un guardalinea che richiama l'attenzione di un arbitro che ha lasciato andare per un episodio del genere, io lo trovo censurabile, perché a 1,80 m di distanza il pallone arriva in un istante, e se tu difensore stai cambiando direzione in quel momento perché segui lo sviluppo, segui dove l'altro ha portato il pallone, che ti resti un braccio staccato di poco dal corpo all'indietro, mi sembra che possa essere un movimento naturale. Poi naturalmente ciascuno valuta come gli pare, insomma il guardalinea ha valutato così, mi pare che secondo la maggioranza dei commentatori abbia sbagliato, però sa, oggi la maggioranza dei commentatori, bisogna poi anche vedere l'attendibilità. Io oggi ho letto alcune rubriche di moviolisti, sostengono che era netto o comunque che c'era il rigore dato ieri al Genoa a Udine, ma sinceramente tra secolo, quindi vede che poi le opinioni sono profondamente diverse. L'ascoltatore di prima mi chiedeva anche di Lavezzi, si può diventare davvero un super, ma io non lo so, cioè io per il momento mi sembra un grande giocatore, certamente di caratteristiche atipiche, anomale, perché in genere quel tipo di, chiamiamole ali, sono giocatori più di sostanza offensiva, come dire, la sostanza che Lavezzi ha sull'arco intero del campo, anche in partite di sofferenze come ieri sera, è addirittura sbalorditiva. Per il momento non mi pare che questo sia accompagnato da un adeguato tasso di rendimento altissimo anche nell'area avversaria, ma dipende dalle formule, dai moduli, dai compagni, dalle caratteristiche, da tante cose. Massimiliano Padova, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Allora, riguardo ieri, ormai sono milanista e sono contento di dove siamo intanto. Sì. Riguardo al rigore, volevo dire, se noi guardiamo uno che penso tutti abbiano da insegnare, Maldini, quando va a coprire un uomo che va a crossare, mette le braccia dietro e se le ferma una sull'altra col polso. Se noi guardiamo, penso che tutti abbiano in mente di guardare Maldini quando va a marcare un uomo che sta per crossare, per cui le braccia aperte, di rigore può starci o no, ma io non volevo parlare di questo. Tra l'altro il direttore sportivo del Napoli ha detto che era lì vicino e ha visto e c'era, per cui confermato lui. La cosa che volevo notare è che il portiere si è mosso decisamente un metro prima, cioè ha fatto un metro in avanti prima che prendesse il pallone, per cui secondo me il rigore era assolutamente da ribattere. Quindi era legittimo e andava ripetuto. Legittimità o meno, no, discutevo sul fatto che può essere dato come no rigore, non è quello il problema. Sì. Però sul fatto che sempre i portieri si muovono prima e non viene mai notata questa cosa. Beh, il portiere prima si può muovere purché si muove in orizzontale. Ieri Iezzo ha fatto un primo passo in orizzontale, poi il secondo l'ha fatto in avanti in verticale. In effetti il rigore a stretto regolamento andava ripetuto. secondo me ci manca ancora quella, ma insomma questa poi è un'altra valutazione. Tanto voglio dire, se Dio vuole non siamo schiavi del pensiero unico e abbiamo possibilità di pensare diversamente. Danilo scrive: caro ben pensante che sarei io, non hai pensato che Ronaldinho non si sia accorto della deviazione e abbia esultato per il suo gol? Non voglio mancare di rispetto a Ronaldinho, penso che non sia miope e che non debba ricorrere agli occhiali, quindi penso si sia accorto della deviazione di Dennis, e cioè di aver messo la palla sulla testa di Dennis. Quindi a maggior ragione ritengo eccessiva quell'esultanza e, visto che si è protratta per un minuto abbondante, direi discretamente patetica anche, e lo ripeto. Maurizio, provincia di Messina, buongiorno. Buongiorno signor Granzini. Dica. Senta, vorrei esporre un problema personale praticamente. Siccome quando c'è stato Moggi, io per tanti anni non ho più seguito il calcio, per almeno 4-5 anni. Ieri sera, dopo la partita di Napoli-Milan, mi sono tornate le stesse sensazioni, sempre essere tornato indietro nel tempo. Un suo parere. No, il mio parere è che lei è rimasto indietro di 4-5 anni e quindi probabilmente le è rimasto un trauma che non ha ancora superato, ma che io credo invece sia stato superato, e mi sembra che la lettura di quello che oggi accade sia ben diversa rispetto a quei tempi. Dopodiché gli errori è difficile eliminarli, e, da una parte, dall'altra è anche giusto cominciare a tenere così, a tenere d'occhio qualche comportamento, perché ripeto, per 7 giornate praticamente perfetti, adesso nelle ultime 3 un po' tanto meno perfetti, e direi con qualche omaggio o qualche sconto a squadre di rango, beh, insomma non vorrei che si rovinasse un campionato così bello. Lo so che noi non facciamo notizie, scrive un ascoltatore, però perché non parla dell'ennesimo furto subito dal Torino? Manca la firma al messaggio, non me ne ero accorto, in genere non li leggo, e quindi serviva per lanciare comunque la singolare autocritica, mi pare, effettuata ieri su tutte le televisioni, ma sulla prima in particolare, quando era più acclarato, dal presidente Cairo. Devo dire che tutto sommato io sto vedendo che in questo campionato, in 10 partite, abbiamo avuto annullati 2 gol validissimi, quello di oggi e quello di Udine sullo 0-0, più ce n'è un terzo di Rubin, sempre 0-0 con il Cagliari, che è molto dubbio, quindi potrebbero anche essere 3 gol annullati sullo 0-0. Allora dico, secondo me, insomma, non dire nulla mai forse è sbagliato. Io sto ricevendo ma veramente centinaia di messaggi di tifosi che mi dicono: lei presidente è un coglione, perché è l'unica persona che non commenta decisioni arbitrali, a volte addirittura allucinanti, tipo quella di oggi o quella di Udine, o anche alcuni dicono quella di Cagliari. Mi avevano detto già tempo fa che effettivamente il presidente Cairo ha dato il suo numero di cellulare, o comunque circola il numero di cellulare del presidente Cairo per i tifosi, che ne fanno un uso abbastanza costante. Non ci volevo credere, e invece c'è. Però mi sembra che invece è davvero così, e mi sembra che sia un cambio proficuo di concetti. Savio da Vicenza, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, complimenti per la trasmissione. Io sono un arbitro di calcio, allora mi trovo la domenica al bar con gli amici a dover difendere un po' la categoria, no? Sì. E da spiegare un po' le regole. Ecco, l'arbitraggio ieri di Rocchi mi ha sorpreso, perché qualsiasi squadra avrebbe perso con il Milan ieri, perché è stato uno spot di non saper arbitrare. Cioè, è stato tollerante al massimo col Milan già al secondo minuto, quando non ha ammonito subito Ambrosini, ha detto: alla prossima ti ammonisco. Ma quando ci insegnano che se c'è il fallo d'ammonizione si va ammonito subito, perché sennò alla prossima bisogna dire tutti i 22 giocatori. Ecco, questo volevo dire. Rocchi dovrebbe dare l'esempio ai più giovani di quando si va in questi grandi stadi, di non avere... essere tolleranti, invece Rocchi ha fatto proprio di tutto di più. Grazie. Grazie a lei, Savio. Diciamo che si può arbitrare meglio, si può arbitrare in maniera più equanime. Bisogna soprattutto trattare tutti i giocatori alla stessa maniera, lo ripeto. quindi non si può consentire tutto quello che si continua a consentire a Gattuso, ma questo non solo da parte di Rocchi, anche da parte di un sacco di arbitri, ieri sera certamente in maniera più spudorata di altre, ma non si può nemmeno consentire però a un campione come Ronaldinho, che palesemente è fuori tempo perché non è in condizione e quindi zompa su Santa Croce, credo non con intenzioni cattive, ma comunque zompa e lo fa uscire, beh, insomma, se non è un fallo d'ammonizione quello, sarebbe curioso sapere quale può essere un fallo d'ammonizione nei parametri di valutazione del signor Rocchi. Paolo da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Dica. Diciamo che nel frattempo sono state un po' sviscerate quelle che erano le tre domande, i tre punti chiavi della partita di Milan-Napoli di ieri, però vabbè, a costo di sembrare ripetitivo magari dico anche io la mia. Da tifoso milanista devo essere onesto, mi ha dato un po' fastidio l'esultanza di Ronaldinho effettivamente. Quindi, meno male. Credo nella buona fede che non abbia realmente visto la deviazione. Ma no, Paolo, non dica così. Si immagini se non ha visto la deviazione, nettissima la deviazione di Dennis. La palla, cioè la traiettoria è corta, non arriva in porta, cioè si sarebbe abbassata troppo se cosa. La palla invece si impenna. Come fa a non vedere quella deviazione? Concordo con lei, è stato un modo per giustificare insomma l'esultanza di questi brasiliani. Ma che... sì, i contratti, tutto il resto, bisogna finire sul tabellino, ripeto, poi i giornali del marketing danno il gol a lui perché dicono che l'UEFA ha dato questa disposizione, come se un giornale dovesse dipendere dall'UEFA, no? Io trovo meravigliosa questa, cioè come se noi giornalisti fossimo tesserati dall'UEFA anziché dipendenti da un'azienda editoriale, però sa, quando c'è di mezzo il marketing vale tutto. Poi? Il discorso del rigore che può essere dato o non dato, non stiamo qua a disquisire, sì, perché effettivamente tutte le considerazioni sono valide, però probabilmente il difensore che ha commesso, se si nota il difensore che ha commesso il fallo, è quello che ha protestato meno di tutti, quindi probabilmente si era reso conto di aver allargato troppo il braccio, quindi platealmente tutta la squadra ha circolato l'arbitro, lui si nota proprio benissimo in un'inquadratura che è lì in attesa di una decisione arbitrale senza tentare di discolparsi, insomma, probabilmente. Vabbè, poi? E basta. E basta. La finiamo qui, no? Ma anche perché insomma, rispetto al rigore Rinzaghi, quello di ieri, a parer mio, è un rigore che si può dare sbagliando, ma almeno ha un senso. Non ha senso il rigore su Rinzaghi contro il Siena. Giovanni, provincia di Pisa, buongiorno. Buongiorno, senta, dica. La mia è una telefonata un po' particolare, Garanzini. Sono uno di quelli che possono vivere bene anche se la propria squadra ha perso, no? Però, siccome piove, si alza la mattina ed è quasi più buio della sera, e ieri abbiamo preso 5 pere, come quelle che abbiamo preso a Cagliari, quindi sono bolognese, sì. Confesso di essere un po' depresso anch'io. E allora... Siccome so che lei è un sostenitore del Chievo, Garanzini, se non sbaglio. Sì, un simpatizzante del Chievo, sostenitore è una parola grossa. Sì, vabbè, grossissima. Ha della simpatia per il Chievo, certo, mentre certo. Io invece sono un sostenitore da sempre del Bologna. Sì. La mia proposta è questa. Se io le dico una parola gentile sul Chievo, lei dice una parola gentile sul Bologna per lenire le nostre rispettivi dolori? Giovanni, è una proposta molto, molto carina. Le dirò, dato che non sto soffrendo in maniera particolare per il Chievo, glielo devo confessare. Mi dispiace che stia andando così male, ma dopo 4-5 giornate di questa stagione mi ero già rassegnato la cosa e temo che la stessa cosa... Temo di dover suggerire a lei di fare la stessa cosa, perché Iacchini e Arrigoni, per carità, non saranno Ferguson, però è anche vero che quelle due rose sono modeste, sono proprio modeste quelle due squadre, e quindi insomma, o arriva Mandrake sulla panchina o credo che queste siano le due candidate principali a retrocedere quest'anno. Poi per carità il colpo di bacchetta non si può mai escludere, qualche intervento saggio a gennaio al mercato pure, però a gennaio se il trend è questo si è quasi retrocessi e serve poi un miracolo tipo Ballardini l'altro anno a Cagliari per salvarsi. La vedo duretta, grazie comunque del pensiero. Marco dalla provincia di Ravenna, buongiorno. Buongiorno Garanzini, due rilievi sul posticipo di ieri sera, sì. Il primo lei è troppo buono con Ronaldinho, perché definisce patetica l'esultanza, io definirei ridicola, perché quello è un cross ben messo che poi chiaramente cambia completamente traiettoria, come diceva lei adesso all'ascoltatore di Milano. Certo Marco, la scusi, seconda... no mi lasci dire, volevo sottolineare ancora che è tanto più patetica o ridicola, scegliamo pure uno dei due aggettivi senza imbarazzi, l'uno o l'altro indifferentemente, in quanto Ronaldinho è un grande giocatore, cioè se questa cosa la fa Scacca Barozzi, sperando che non ci sia nessuno Scacca Barozzi in attività oggi, insomma, se la fa il signor X che per purissimo caso da un cross su punizione riesce a far diventare un gol e vince la partita in quella maniera, capisco che vada pure a levarsi la maglietta, ma che debba fare quella danza patetica, uno che di gol ne ha segnati alcuni, ne segnerà ancora, si chiama Ronaldinho, lo trovo veramente, e ne aggiungiamo un terzo di aggettivo, grottesco, mi scusi se l'ho interrotta. Ci mancherebbe. La seconda cosa riguarda invece Sky, io sono più masochista di lei, quindi purtroppo guardo i commenti. Bravo. E mi spiaccio molto, perché sia mercoledì sera dopo il Siena che ieri sera Ancelotti, che è un gran galantuomo e un grande esperto di calcio, mi delude un po' e mi fa cadere le braccia, perché dice in entrambi i casi, anche un po' stizzito, che era rigore. Ora, quello di Inzaghi non è rigore neanche in terza categoria. Questo qua, insomma, è molto discutibile. E dovrebbe uscire dal tranello dei commentatori Sky e dire che la sua squadra ha giocato meglio, che ha fatto di più e che meritava di vincere a prescindere dal rigore. Io farei così, ecco, lascerei perdere il commento di quegli episodi, perché è evidentemente un tranello di Sky per cercare di alimentare le polemiche. In questo lei ha ragione Marco, però io sinceramente non ho mai sentito un allenatore, non ne ho mai sentito uno dire no, il rigore che ci hanno dato non c'era, il rigore ci hanno dato un regalo. Sinceramente no, ecco, io credo che con tutto il saper vivere di Ancelotti questo manchi anche a lui, ma come mancherà sempre credo a tutti, perché un po' perché quando stai facendo una cosa con quell'intensità e con quella carica nervosa che è richiesta per stare in panchina, un minimo finisci per crederci o per convincerti davvero, un po' perché la ragion di stato comunque viene prima di tutto. Mi informa quel centrone di Flavio Suardi che Niccolò Scacca Barozzi è uno dei migliori ragazzi delle giovanili dell'Inter classe 1991, quindi chiedo scusa a Scacca Barozzi, ma mica tanto, perché gli auguro al suo debutto in campionato nell'Inter di tirare una punizione come quella di Ronaldinho di ieri e poi di fare grandi scene, levarsi le maglie e prendere pure a calci la bandierina, però sarà sempre Scacca Barozzi al debutto e non Ronaldinho verso la pensione. Sarà l'olandese Vink ad arbitrare mercoledì sera Real Madrid-Juventus, lo ha reso noto l'UEFA, per Fiorentina-Bayern Monaco è stato designato uno spagnolo, Undiano Malenko, mentre Rosetti dirigerà a Londra Arsenal-Fenerbahce. Il ripasso di storia, Nicola Filippone. Sembra ieri. 3 novembre 1991. È il giorno della corsa più breve nella storia della Formula 1. Sul circuito di Adelaide va in scena il Gran Premio di Australia, ultima prova di un mondiale che Ayrton Senna ha già matematicamente vinto. Sulla gara si abbatte un potente temporale che innesca una catena tragicomica di incidenti, alcuni persino ai box. Gli organizzatori decidono così di decretare la fine della corsa dopo soli 14 giri, una distanza inusuale per un Gran Premio. Il successo va al campione del mondo Senna su McLaren, che precede la Renault di Mansell e il compagno di scuderia Berger. Piloti e team si vedranno attribuire un punteggio dimezzato. Certo che questo Amarcord all'indomani del finale epico del Gran Premio di ieri insomma, è quanto mai opportuno, diciamo che di rara tempestività. Tra l'altro ieri sono stati 10 milioni i telespettatori che hanno seguito dalle 18 su Rai 1, sin quasi alle 20, il Gran Premio del Brasile, e 9.892.000, uno share che ha sfiorato il 50%, cioè quasi un televisore acceso su due. Da Torino, Angelo, buongiorno. Buongiorno a lei Garanzini, sì, finalmente ci sentiamo. Io telefono esclusivamente per fare i complimenti, non è che segua particolarmente il calcio, se non ultimamente. Tempo fa parlava con mai sufficientemente compianto Scoglio di un giocatore che combinazione alla sera, avevo visto la sua trasmissione e ha detto: ma c'è questo Cambiasso che il Real Madrid lascia fuori, lo vedrei bene in una squadra italiana. Il giorno prima o il giorno dopo lei disse più o meno la stessa cosa. Io non ho mai sentito parlare di Cambiasso. Un suo collega che urla spesso, e lasciamo perdere i nomi e i cognomi, diceva: ma quale Cambiasso, ci mancherebbe altro, lì ci vuole Rockenbach. Non so più dove sia finito Rockenbach, ma so dove adesso non gioca purtroppo Cambiasso, e che per me è altrettanto importante come Ibrahimovic. L'ascolto per radio e complimenti per la trasmissione. Grazie Angelo, ma ogni tanto ci si piglia, ogni tanto meno. Certamente nel caso di Cambiasso non era così difficile, rimane la cessione di Cambiasso, insomma l'avere lasciato andare via parametro zero, rimane credo la macchia principale nel Real Madrid degli ultimi 10 anni, perché poi le ripeto, soprattutto quando una squadra come quella fa tali e tanti affari nel corso di 2 mercati annuali, quello estivo e quello invernale, può scappare l'acquisto di quello che non è quello che davvero pensavi, o la cessione di uno che poteva ancora tornare buono, ma uno dell'età di Cambiasso, delle qualità di Cambiasso, e a quel punto tra l'altro del Real l'unico che avesse le caratteristiche di un giocatore che già avevano sbagliato a cedere assurdamente, che era Makelele, era veramente una follia. L'hanno fatta, buon per l'Inter, anche perché l'Inter l'ha preso a parametro zero e ha potuto da Cambiasso in poi dire: vedete che anche noi al mercato sappiamo muoverci, cosa che da quel giorno è diventata vera, prima meno. Eros da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, complimenti. Niente, io telefono per farle i complimenti e per dirle che lei deve avere una pazienza tale per alcuni commenti, perché le spiego. Io ho giocato a pallone in merito al rigore che è andato al Milan, cioè si vede nettamente che è un gesto involontario, tant'è che il giocatore del Napoli lo prende addirittura con il dorso della mano, cioè rischiando anche di farsi male al polso, se lei sicuramente ha notato, cioè per cui non può aver messo il braccio volendo, ecco. E poi anche Ronaldinho, quando chiamano dicendo: ma può darsi che Ronaldinho non si sia accorto che il giocatore l'abbia colpito di testa, cioè mi sembra quasi assurdo, ecco. Sì. Poi mi fa piacere vedere che Mourinho, scusi se la interrompo, che Mourinho, ecco, è ritornato un po' con i piedi per terra, ecco, la ringrazio. Grazie a lei, Eros, ma guardi che non è questione di pazienza, perché in fondo stiamo parlando di pallone, stiamo impiegando del tempo, questa è un'ora di tempo libero e quindi se Dio vuole credo che tutte le opinioni abbiano diritto di cittadinanza, anche Frank, un certo Frank, che certamente non sarà il nome suo, che scrive: che patetici che siete, ma chi se ne frega, rosicatevi dalla rabbia come meritate per essere così antisportivi e anti-Milan. Cioè ci sono anche i deficienti che hanno diritto di cittadinanza in questo programma, non si vede perché no, soprattutto se hanno la cortesia di intervenire per iscritto. Marco da Salerno, buongiorno. Buonasera Garantini. Dica. Niente, volevo intervenire in merito alla partita di ieri sera tra Milan e Napoli. Sì. Niente, francamente da tifoso del Napoli sono rimasto un pochino sconvolto riguardo alla direzione arbitrale. Un pochino sconvolto non è fatto. Unico. soprattutto reiterando degli errori piuttosto grossolani, ecco, che non mi fanno pensare assolutamente in un campionato falsificato, ma quantomeno in una circostanza psicologica. Francamente questa si è denotata. Volevo anche porre l'accento su un'altra questione, nonostante le più volte l'ha ripetuto. Il comportamento di Vecchio, di Gattuso al centrocampo, che dopo circa 10 falli, anche qualcosa di più, non ha preso nemmeno un cartellino. E ancora su un altro punto, praticamente sull'omertà talvolta demarcata anche dei cronisti Sky, che non hanno mai, e dico mai, sottolineato questo comportamento abbastanza poco positivo anche nei confronti di giovani che si avvicinano al questo sport, ecco. Grazie. Il parere l'abbiamo, insomma, no, è una questione che ormai ritorna da 40-45 minuti e temo abbia leggermente stancato la massa degli ascoltatori, di chi è collegato con noi. Certamente val la pena, come lei ha fatto inizialmente, di ripetere, al di là poi di altre valutazioni sue che mi paiono un po' eccessive, vale la pena di ripetere che Risulta un po' difficile capire come in tempi di tolleranza zero, in generale in vari campi, Gattuso possa permettersi di quegli, non tanto di quei falli, o anche ogni tanto di quei falli, ma soprattutto di quegli atteggiamenti. Cioè, o lui quando si mette veramente a muso duro a 10 centimetri dal naso dell'arbitro o dell'assistente, gli dice: sono contento di poterti invitare, gli urla, sono contento di poterti invitare a cena stasera, sarai mio ospite e correrà lo champagne a fiumi, o gli dice questo, oppure secondo me prima o poi un cartellino ci potrebbe saltare fuori, insomma. Da Milano, Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Dica. Io chiamo appunto da Milano, ma sono tifosissimo del Napoli in quanto sono di origini napoletane, quindi volevo innanzitutto dire che sono orgoglioso di questo Napoli, che abbiamo veramente una signora squadra, e in virtù dell'arbitraggio di ieri credo che sia stato detto un pochino tutto. Volevo aggiungere solo il fatto appunto che su Ambrosini fa il primo fallo, gli dice alla prossima ti ammonisco, a maggio invece è stato ammonito immediatamente, Ronaldinho che non è stato ammonito su Santa Croce, lo stesso Zambrotta al primo tempo su Amsic che poi dopo è stato costretto ad uscire. Sì, anche se quello non mi è sembrato, Angelo, quello non mi è sembrato volontario, quell'intervento di Zambrotta. Poi gli ha fatto male, intendiamoci, perché spesso e volentieri sono i contrasti involontari quelli che fanno più male, perché probabilmente non te l'aspetti, però insomma questo non mi è sembrato. Non è stata una, a parer mio perlomeno, una brillante direzione di gara, non è stata nemmeno una direzione di gara scandalosa. Certamente staremmo facendo però altri discorsi orientati verso la seconda ipotesi, e cioè verso quella, non dico scandalosa, ma verso quella un po' grave o un po' greve, se la partita si fosse decisa, cioè se Kakà avesse trasformato il rigore. Ora, poiché fino al rigore di Kakà si erano segnati in campionato in 10 giornate 24 rigori sui 24 concessi, di cui altri 3 ieri, beh, insomma, il fatto che Iezzo, sia pure facendo un passo in avanti di troppo, abbia preso quel pallone, e in un certo senso ha contribuito a svelenire un dopo partita che sarebbe stato assai più caldo, perché ripeto, insomma, ci vuole un discreto fegato a concedere un rigore così a 5 minuti dalla fine. Il fatto che Rocchi l'abbia avuto non mi sembra un buon segnale. Speriamo che non sia un segnale univoco, e speriamo che invece ne arrivino di segno diverso nelle prossime giornate. Ci risentiamo domani, grazie a Filippo Aureggi in regia, Flavio Suardi in redazione, Giornale Radio.